Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. L'appartamento si trovava all'ultimo piano. Un piccolo soggiorno, una piccola sala da pranzo, una piccola stanza da letto e un bagno. Un nutrito assortimento di mobili tappezzati e decisamente sproporzionati all'ambiente affollava il soggiorno, lasciando libere soltanto le porte, per cui muoversi significava inciampare di continuo in scene di belle dame che si dondolavano sulle altalene dei giardini di Versailles. Il solo quadro era la fotografia ingrandita più del dovuto di quel che pareva essere una gallina accoccolata su una roccia sfocata. Osservata da una certa distanza, la gallina si trasformava però in un cappellino e il volto grassoccio di una vecchia signora illuminava la stanza con la sua espressione sorridente. Sul tavolo erano posati diversi numeri di Town Turtle insieme a una copia di Simon Cold Peter e qualche rivista scandalistica di Broadway. La signora Wilson si preoccupò dapprima del cane. Un contrariato ragazzo dell'ascensore si adoperò per procurarle una scatola piena di paglia e un po' di latte, al quale aggiunse di sua iniziativa un barattolo di grossi biscotti per cani, così duri che uno di essi impiegò l'intero pomeriggio a decomporsi apaticamente nella scodella di latte. Nel frattempo Tom estrasse una bottiglia di whisky da un armadietto chiuso a chiave. «Mi sono ubriacato soltanto due volte in vita mia, e la seconda fu proprio quel pomeriggio. Perciò quanto accadde è offuscato da una densa nebbia, malgrado un sole piacevole abbia invaso l'appartamento sino a dopo le 8. Seduta in grembo a Tom, la signora Wilson chiamò diverse persone al telefono. Quindi mancarono le sigarette e io uscii per comprarle alla drogheria all'angolo. Quando tornai, loro erano spariti, così con discrezione mi accomodai in soggiorno e lessi un capitolo di Simon Cold Peter. O era roba orribile o il whisky distorceva le cose, fatto sta che il romanzo mi parve del tutto privo di senso. Proprio mentre Tom e Myrtle, dopo il primo bicchiere, io e la signora Wilson eravamo già passati al tu e a chiamarci per nome, tornavano a palesarsi, gli invitati cominciarono a bussare alla porta. La sorella, Catherine, era una ragazza sulla trentina, snella e smaliziata, con un compatto caschetto di capelli rossi e una carnagione alabastrina, d'una tonalità simile al latte in polvere. Le sopracciglia erano state depilate e ridisegnate con una curva più slanciata, ma gli sforzi che la natura stava facendo per ripristinare il vecchio allineamento conferivano al volto un aspetto confuso. Quando si muoveva, era accompagnata da un tintinnio incessante per via degli innumerevoli bracciali di ceramica che le scivolavano su e giù per le braccia. Entrò con tale sbrigativa sicurezza e guardò i mobili con occhi così possessivi che veniva da domandarsi se non vivesse lì. Ma quando glielo chiesi, lei rise senza contegno, ripeté la mia domanda ad alta voce e mi spiegò che viveva insieme ad un'amica in un albergo. Il signor McKee era un uomo pallido ed effeminato che abitava al piano di sotto. Si era appena rasato, perché aveva una macchia bianca di schiuma sullo zigomo, e si rivelò assai ossequioso nel salutare tutti i presenti. Mi informò che faceva parte dell'agone artistico, e poco dopo realizzai che era un fotografo, nonché l'artefice dello sfocato ingrandimento della madre della signora Wilson, che pendeva come un ectoplasma dalla parete. Sua moglie era stridula, languida, bella e tremenda. Mi disse con orgoglio che il marito l'aveva fotografata 127 volte da quando si erano sposati. La signora Wilson si era cambiata di nuovo poco prima e adesso indossava un elaborato abito da pomeriggio di chiffon color crema che emetteva un fruscio continuo quando lei si spostava per la stanza. Sotto l'influenza del vestito anche la sua personalità aveva subito un cambiamento. La forte carica vitale messa in mostra nell'autorimessa si era trasformata in grandiosa alterigia. Le sue risate, i suoi gesti, le sue affermazioni si fecero di minuto in minuto decisamente più affettate e più lei si gonfiava più la stanza si rimpiccioliva finché la signora parve roteare per l'aria piena di fumo come su di un perno cigolante e rumoroso. «Mia cara», disse alla sorella gridando in modo innaturale, «molta di questa gente non fa che imbrogliarti, pensano solo ai soldi. È venuta una donna qui da me la scorsa settimana per curarmi i piedi, ma a giudicare dal conto che mi ha presentato avresti detto che mi ha tolto l'appendicite». «Come si chiamava questa donna?» chiese la signora McKee. «Eberhard. Fa la pedicura a domicilio». «Mi piace il vostro vestito», osservò la signora McKee. «Trovo sia adorabile». La signora Wilson respinse il complimento con una sdegnosa alzata di sopracciglia. Non è che è un vecchio straccetto, disse. Me lo infilo solo certe volte quando non debbo preoccuparmi di come sto. Ma cosa dite? È un amore addosso a voi, se capite cosa intendo, insiste la signora McKee. Se solo Chester potesse ritrarvi così, credo che ne verrebbe fuori una gran bella foto. Tutti noi osservammo in silenzio la signora Wilson scostarsi dagli occhi una ciocca di capelli e ricambiare lo sguardo con un sorriso smagliante. Il signor McKee la fissò con intensità, piegando il capo da un lato e quindi avvicinando e allontanando lentamente la mano dal proprio viso. «Avrei bisogno di una luce diversa», disse dopo un momento. «Mi piacerebbe saltare il modellato dei lineamenti e proverei a raccoglierle i capelli sopra la nuca». «Io non mi preoccuperei di cercare una luce diversa», protestò la signora McKee. «Penso che il marito fece shh». E tutti noi tornammo a guardare il soggetto, al che Tom Buchanan cacciò un forte sbadiglio e si alzò in piedi. «Miei cari McKee, dovete bere qualcosa», disse. «Vai a prendere altro ghiaccio e dell'acqua minerale, Myrtle, prima che tutti si addormentino. L'ho già detto al ragazzo di portare il ghiaccio». Myrtle sollevò le sopracciglia in segno di esasperazione per l'indolenza del personale di servizio. «Che gente, devi stargli dietro tutto il tempo!» I miei un'occhiata e rise senza motivo. Quindi si gettò stizzita sul cane, lo baciò estasiata e si spostò in cucina, lasciando intendere che una dozzina di chef fossero in attesa di sue disposizioni. «Ho fatto dei bei lavori a Long Island», affermò il signor McKee. Tom lo guardò inespressivo. «Due li abbiamo sotto, incorniciati». «Due cosa?» domandò. «Due studi. Uno l'ho intitolato Montauk Point, i gabbiani, e l'altro Montauk Point, il mare». La sorella, Catherine, si sedette accanto a me sul divano. «Anche voi vivete giù a Long Island?» si informò. «Vivo a West Egg». «Davvero? Ci sono stata circa un mese fa, a una festa, a casa di un uomo di nome Gatsby. Lo conoscete? Abito di fianco alla sua villa». «Insomma, dicono che è nipote o cugino dell'imperatore Guglielmo, è da lì che vengono tutti i suoi soldi». «Sul serio?» annuì. «A me fa paura, non vorrei mai che dovesse avercela con me per nessun motivo». Questo interessante ragguaglio circa il mio vicino fu interrotto dalla signora McKee, che d'improvviso indicò Catherine. «Chester, penso che potresti combinare qualcosa anche con lei», proruppe, ma il signor McKee si limitò a un annoiato cenno di assenso e spostò la propria attenzione su Tom. «Mi piacerebbe fare altri lavori a Long Island. Chiedo solo che mi diano un'opportunità». «Chiedete a Myrtle», disse Tom, scoppiando in una breve raffica di risata non appena la signora Wilson entrò con un vassoio. «Vi fornirà una lettera di presentazione, non è vero, Myrtle?» «Fornirò cosa?» chiese lei allarmata. «Fornirai a McKee una lettera di presentazione a tuo marito affinché possa usarlo per qualche studio». Le sue labbra si mossero mute per un istante mentre inventava. «George B. Wilson alla pompa di benzina», o qualcosa così. Catherine si piegò verso di me e mi sussurrò in un orecchio. «Nessuno dei due sopporta la persona che ha sposato». «Ah no? Non le sopportano più». Catherine diede un'occhiata a Myrtle e poi una a Tom. «Io dico, perché andarci a vivere insieme se non le sopportano? Dovrebbero divorziare e sposarsi tra loro. Ecco cosa farei se fossi loro, subito». «Nemmeno a voi piace Wilson». La risposta fu inaspettata. Giunse da Myrtle, che aveva intercettato la domanda, e fu una risposta violenta e volgare. «Visto», esultò Catherine. Abbassò di nuovo la voce. «In realtà è la moglie di lui a tenerli separati. È cattolica e i cattolici non credono nel divorzio». Daisy non era cattolica e io restai un poco scioccato da una bugia tanto complicata. «Quando una buona volta si sposeranno», continuò Catherine, «andranno a vivere per qualche tempo nell'Ovest finché non si saranno calmate le acque. Sarebbe più discreto andare in Europa». «Ah, vi piace l'Europa?» esclamò sorpresa. «Sono giusto tornata da Monte Carlo». «Davvero? Giusto lo scorso anno ci sono andata con un'altra ragazza. Un soggiorno lungo». «No, siamo andate e tornate, siamo passate per Marsiglia. Avevamo oltre 12.000 dollari quando siamo partite, ma ce li hanno fregati tutti con 2 giorni di sale riservate. Non è stato per niente facile tornare a casa. Per un momento il cielo del tardo pomeriggio sfolgorò nel riquadro della finestra, alla maniera dell'azzurro mielato del Mediterraneo. Dopodiché la voce stridula della signora McKee mi richiamò dentro la stanza. «Stavo per commettere uno sbaglio anch'io», dichiarò con vigore. «Per poco non sposavo uno sgorbietto d'ebreo che mi correva dietro da anni. Sapevo che non era la mia altezza e tutti seguitavano a dirmi: Lucille, quell'uomo non è affatto la tua altezza, ma se non avessi incontrato Chester, mi avrebbe accalappiato di sicuro». «Sì, ma Ma statemi a sentire, disse Myrtle Wilson, facendo su e giù con la testa. Almeno non l'avete sposato. Certo che no. Beh, io l'ho sposato, disse Myrtle in tono ambiguo. E questa è la differenza tra il vostro caso e il mio. Perché l'hai fatto, Myrtle? Domandò Catherine. Non ti ha costretta nessuno. Myrtle rifletté. L'ho sposato perché credevo fosse un gentiluomo, disse infine. Pensavo conoscesse un po' di buone maniere, ma non era nemmeno degno di leccarmi le scarpe. Eri pazza di lui a un certo punto, disse Catherine. Pazza di lui, gridò Myrtle incredula. Chi ti ha detto che ero pazza di lui? Non sono mai stata pazza di lui più di quanto lo sia mai stata di quel signore lì. Puntò d'improvviso il dito contro di me e tutti mi fissarono con occhi accusatori. Cercai di chiarire con l'espressione del volto che non avevo alcun ruolo nel suo passato. La mia sola pazzia è stata averlo sposato. Capii subito di avere commesso uno sbaglio. Si è fatto prestare da qualcuno il vestito per il matrimonio senza dirmelo, finché un giorno, mentre lui non c'era, si è presentato il proprietario per avere il vestito. Ah, ma è vostro quel vestito, ho detto io. È la prima volta che lo sento. Ma gliel'ho dato e poi mi sono buttata sul letto a piangere come una fontana tutto il pomeriggio. Farebbe bene a mollarlo quanto prima, riprese Catherine rivolgendosi a me. Vivono in quel garage da 12 anni e Tom è il primo innamorato che abbia mai avuto. La bottiglia di whisky, la seconda, era adesso continuamente richiesta da tutti i presenti, fuorché Catherine, che si sentiva a posto così, senza prendere niente. Tom fece uno squillo al portiere e lo spedì a comprare certi panini, a quel che pareva assai rinomati e sufficienti per una cena completa. Avevo voglia di uscire e fare una passeggiata verso il parco, nella luce morbida del tramonto, ma ogni mio tentativo di andarmene finiva per impigliarsi in una discussione molto accesa e mi ritrovavo costretto alla sedia come fossi legato. Tuttavia, dominando dall'alto la città, la nostra fila di finestre gialle doveva offrire la propria parte di segreti al passante che dalla strada buia avesse rivolto lo sguardo all'insù. E anch'io mi sentivo come quell'osservatore occasionale e come lui alzavo gli occhi e mi interrogavo. Mi trovavo dentro e fuori al contempo incantato e disgustato dall'inesauribile varietà della vita. Myrtle accostò la sedia alla mia e subito il suo respiro caldo mi rovesciò addosso la storia del primo incontro con Tom. È successo sul treno, su quei due piccoli sedili messi uno di fronte all'altro che vengono sempre occupati per ultimi. Stavo andando a New York per vedere mia sorella e passare la serata. Lui era in abito da sera e aveva un paio di scarpe di vernice e non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Ma ogni volta che lui mi guardava io facevo finta di leggere una pubblicità sopra la sua testa. Quando siamo arrivati in stazione lui era accanto a me e il suo sparato bianco mi premeva sul braccio. E così gli ho detto che avrei chiamato la polizia, ma sapeva che mentivo. Ero così eccitata quando sono salita in taxi insieme a lui che per poco non mi sono nemmeno resa conto che non stavo prendendo la metropolitana. La sola cosa che seguitavo a pensare, a ripetermi in continuazione era: non si vive in eterno. Non si vive in eterno. Si voltò verso la signora McKee e la stanza fu inondata dal suono delle sue risate insincere. Mia cara, esclamò, vi regalerò questo vestito non appena ne avrò avuto abbastanza. Devo comprarne un altro domani, farò una lista delle cose che devo fare. Un massaggio, una messa in piega, un collare per il cane e uno di quei graziosi piccoli posacenere con la molla da spingere e una corona di fiori con un fiocco di seta nera per la tomba di mia madre che duri tutta l'estate. Voglio scrivere una lista, così da non dimenticare nulla. Erano le 9. Subito dopo, o quasi, controllai l'orologio e scoprì che si erano fatte le 10. Il signor McKee si era addormentato su una sedia e teneva in grembo i pugni serrati come la foto di un uomo d'azione. Estrassi il fazzoletto e glielo passai sulla guancia per togliere quel che restava della macchia di schiuma rinsecchita che mi aveva angustiato tutto il pomeriggio. Il cucciolo sedeva sul tavolo. Si guardava attorno con gli occhi irritati dal fumo e di quando in quando emetteva deboli guaiti. Le persone sparivano e riapparivano, programmavano di recarsi in qualche posto e quindi si perdevano e si cercavano, per poi ritrovarsi pochi metri più in là. Intorno alla mezzanotte Tom Buchanan e la signora Wilson si ritrovarono in piedi, faccia a faccia, a discutere con voci accalorate circa il diritto della signora Wilson di fare il nome di Daisy. «Daisy, Daisy, Daisy!» gridò la signora Wilson. «Lo dico quando e quanto mi pare! Daisy!» Con un movimento agile e veloce della mano aperta, Tom Buchanan le ruppe il naso. A che il pavimento del bagno si riempì di asciugamani insanguinati e voci di donne che ridarguivano, e sopra tutta quella confusione un prolungato e spezzato pianto di dolore. Il signor McKee si svegliò dal suo pisolino e si avventò intontito verso la soglia. Quando fu a metà strada si girò attorno e fissò la scena. Sua moglie e Catherine che sgridavano e consolavano, inciampando di qua e di là con l'occorrente per il pronto soccorso in quella stanza zeppa di mobili, e la disperata figura sul divano che sanguinava copiosamente e cercava di stendere una copia di Town Tattle sopra la tappezzeria con le scene di Versailles. Quindi il signor McKee si voltò e si avviò verso la porta per uscire. Lo seguì, prendendo il cappello alla mandaraia. «Venite a pranzo un giorno di questi», mi propose mentre l'ascensore scendeva mugolando. «Dove? Dove pare a voi?» «Tenete le mani lontano dalla leva», scattò il ragazzo dell'ascensore. «Chiedo scusa», disse il signor McKee con dignità. «Non mi ero accorto che la stavo toccando. Affare fatto, acconsentì, sarà un piacere». Ero in piedi accanto al suo letto e lui era seduto tra le lenzuola, con indosso soltanto la biancheria intima e un grande portfolio nelle mani. La Bella e la Bestia, Solitudine, Il vecchio cavallo del droghiere, Il ponte di Brooklyn. Quindi mi ritrovai disteso e mezzo addormentato nel freddo del piano inferiore della Pennsylvania Station, intento a fissare la prima edizione del Tribune in attesa che passasse il treno delle 4:00.